24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Per mano andare lontano la felicità. Felicità. C'è di nuovo Casini, richiama anche Fini, la felicità. Ritorna al governo, ci resta in eterno la felicità. Senti nell'aria c'è Toti con la tuta bianca nella beauty far. E la pioggia che scende dietro le tende la felicità. Pare che il più felice sia proprio lui, Silvio Berlusconi, che danno per certo come vincitore. Adesso torna Casini, si rimette Casini ed è sicuro: posso vincere, anche se c'è un piccolo stop, un piccolo problema, un piccolo incidente domestico accaduto a Silvio Berlusconi. Giuro, l'ho letto, giuro, su Libero l'ho letto oggi. È scivolato sulla palla usata da Dudu per giocare, si è fatto male e ha avuto bisogno dell'ortopedico. Giuro, l'ho letta su Libero, l'ho letta così. Tra l'altro all'inizio, ma c'è Paola Saluzzi? Paola. Ma buongiorno, cioè, no. Buongiorno Alino Funambolo. Funambolo. Ma insomma, voglio dire, ero qui che aspettavo, dico, ma vabbè, tra una scivolata sulla palletta di Dudu e un Albano che canta, ci terrà anche me. Infatti, tra l'altro all'inizio ho detto, ma ho letto il titolo, scivola sulla palla di Dudu e si fa male. Ma all'inizio ho pensato, ma Dudu non era femmina. Poi ho capito che... Milan! Ma l'ho capita così all'inizio. Ma credimi, alle 5:30 non è che uno legge un titolo. Alle 5:30 del mattino le cose si possono anche vedere un po' incrociate. E invece... Diciamo piuttosto che gli animaletti domestici, che sono la gioia della nostra vita, ogni tanto ci fanno così inciampare su giochini che poi gli compriamo noi, perché questa è la verità. Insomma. Tu pensa a Berlusconi, che non può mai dire nulla, mai potrà dire nulla contro Dudu. In quel momento cosa avrà detto? Prova a immaginare. Dai, dimmi. Non lo so. In quel momento cosa avrà pensato? Chi lo sa? Lo voglio chiedere anche a Luca Dini, il direttore di Vanity Fair. Caro Luca, buongiorno. Cosa avrà pensato? Cosa avrà esclamato secondo te Berlusconi, se è vero quello che scrive Libero, è scivolato sulla palla usata da Dudu? Da domani solo leggo. Vabbè, ma insomma, non lo so. Caso fosse stato un gatto, come la mia Caterina, io in quei casi dico sempre gatto con patate. Secondo me Berlusconi è stato almeno un bel cribbio Dudu, l'avrà esclamato, un bel cribbio. Non eravamo preparati né io né i direttori. Vabbè. Allora dai, apriamo il Parlamento anche oggi. Saluto Miriam Lucchetti, è in redazione. Il caffè volentieri. Saluto Nicole Minetti, che fa rima. Ah, questa è. Siamo arrivati adesso. Saluto Peter Bescapè, che non fa rima con Lucchetti e Minetti, ma è lì in regia. E allora, come avete capito, ci sono con noi Paola Saluzzi di Sky TG24 pomeriggio. Ma un bombardino, parliamo del bombardino. Cioè, in Italia fa freddo e ci sono anche purtroppo situazioni, A Cortina ci sono 3 metri di neve sui tetti. Abbiamo un alpino in regia. Mandiamo la cortina. Diamo prima o poi questa ricetta, cioè io lancio questa proposta. Vabbè. Diamo prima o poi la ricetta del bombardino. La ricetta del Siamo bombardino. Siamo persone serie, insomma, ecco, detto la qualcosa, mi taccio e ascolto. No, vabbè, ma facciamo Google ricetta del bombardino e magari ve la diamo entro poco. Allora, e siamo anche con Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Che dire? Oh, è tutto un gran politicare. Ieri vedevo Paola Saluzzi combattere con Maurizio Bianconi, mitico. Ieri è stata particolarmente complessa la mitico puntata, Maurizio Bianconi, un mito. Tu sei pazza a invitarlo. Io lo inviterei sempre quando vuole. Maurizio Bianconi. No, ma lui è ragazzaccio toscano. Sì, proprio. Tesoriere di Forza parte Italia. Parte libero così, partitore libero, va dove vuole. Esatto. E così. C'era per fortuna il vostro Mario Secchi di Mix 24 con Giovanni Minoli, certo. Nel grande buttafuoco, che così faceva l'arbitro, faceva l'arbitro. Teneva bada tutta questa questo gruppo un po' agitato di persone. Vabbè, a proposito di agitazione, di cosa vogliamo, caro Luca Dini, ti voglio mettere subito di buon umore, ti faccio sentire Borghezio. Hai visto ieri la Lega? Borghezio che ha interrotto. No, non ti mette di buon umore? No, vabbè, lo facciamo sentire lo stesso. Borghezio che interrompe Napolitano all'Europarlamento. No, i termini della scelta non sono questi. Infatti, poste di fronte... Ok. Grazie. Grazie, sentite infatti... che signor, grazie gli ha detto Napolitano. Cos'è libertà, no, all'Europa delle banche? Poi la Lega hanno fatto una gazzarra anche ieri in Parlamento, questa volta nazionale, c'è cioè Buonanno, un altro che si distingue, che ha lanciato un paio di manette sugli scranni del governo perché approvavano il decreto svuota carceri. Allora, Luca, non si abbassa questa politica un po' così rissosa? No, è dura farsi notare quando conti sempre meno. Lo so, infatti anche oggi il Corriere della Sera fa questo editoriale a dire, insomma, è una Lega ormai che è tornata, come dire, no? Che ha avuto un'involuzione da forza nazionale a forza locale, quindi dici lo fa per farsi vedere? Beh, che altro pensare? E comunque è triste questo portare fuori a Bruxelles, eccetera, le beghe e il nostro linguaggio di casa, anzi da cortile proprio. Sì, sì, c'è da dire, loro dicono se non si protesta all'Europarlamento contro la moneta unica e contro l'euro, che è la battaglia della Lega, però effettivamente... Sì, ma pensano di farlo così. Appunto, ci facciamo notare, come dire, no? Questo sicuramente non è un qualcosa che è positivo, cioè il farsi notare all'italiana, cara Paola Saluzzi, all'italiana. Ma ricordo qualcosa di simile anche contro Ciampi, oppure la memoria mi tradisce. Ma chi insomma, lo però... sa? Ma tu no mi vuoi chiedere queste cose? No, ma Miriam Lucchetti mi fa dall'altra parte sì col veto, sì mi fa giusto, quindi io lo prendo per fede, anche cara contro Ciampi è successo. Quello che dice Miriam Lucchetti è verità. Chiocciola alle nuvole su Twitter è verità. Assoluta. Quindi voglio dire, io oramai vi ho adottato questa verità, insomma, siete i miei cari del mercoledì. E non solo, diciamo che ci sono anche altri modi, no, per contestare, e poi se uno vuole commentare io dico no comment. Va bene, comunque tra l'altro ci sono modi politici, dici. E bisogna avere il peso per farle, però, le battaglie politiche. No, questo certamente. Che tra l'altro, paradossalmente, Napolitano per la prima volta, fanno notare, è andato in Europa, come dire, un po' a cantargliele all'Europa. Basta con la politica dell'austerity, ci vuole più sviluppo, basta solo il rigore dei conti, come chiede Angela Merkel. Quindi è andato in qualche modo, certo non ha fatto la battaglia, non ha mai detto, anzi ha ridetto, ci vuole, bisogna rafforzare l'euro, bisogna stare nell'euro, però in qualche modo, caro Luca, gliel'ha cantata l'Europa. Eppure... ma Borghezio non capiva perché parlava italiano. Questa, hai capito, cara Paola, come si è svegliato Luca Dini oggi? Perché Luca Dini è come quei piattoni Soriano, Zac la zampata in piazza a largo Argentina a Roma, quando sì, c'è quel sole d'inverno caldino, sembra che siano così tutti paciosi, poi esatto, tirano fuori la zampata e poi e via. Vabbè, comunque d'altronde questo è il clima da insulto un po' perenne. Non c'è un buon clima, insomma. Non c'è un buon clima. D'altronde, non c'è un buon clima meteo e non c'è un buon clima di altra natura. D'altronde Paola Saluzzi, l'ha detto anche Beppe Grillo, c'è un golpe in corso. Io ieri quando ho sentito questa cosa mi sono affacciato alle finestre a vedere se ci fossero i carri armati ai crocicchi delle strade. C'è un colpo di Stato, ma in corso. Cioè proprio, no? E Renzi ha detto è il tredicesimo. Sì, vabbè, il tredicesimo. Oramai sì, botta e risposta sono questi, insomma, ecco, no? Però insomma, già settimana scorsa ci eravamo lasciati e il clima politico non è certamente migliorato. No. Che bisogna dire? Tu, Paola, hai un'idea, ti sei fatta un'idea nell'impazzimento delle ultime diciamo 72 no, ore? No, io ho detto solo una cosa, cioè la Fossa delle Marianne ha un fondo, perché voglio dire, se no la terra non sarebbe tonda e ci sarebbe un buco da qualche parte, insomma, fa piacere immaginare e pensare che si arrivi fino ad un determinato livello e poi da quel livello si risalga, perché l'offesa in quanto tale purtroppo non serve a niente, no, né per perbenismo né per fare la parte delle boccucce educate, perché poi quando uno deve, e parlo in prima persona, quando uno si arrabbia e volano i pezzi e talvolta anche le parole grosse, però ci deve essere un livello su cui ci si ferma e dal quale poi si decide di risalire. Lo stiamo ancora aspettando e non so se questo livello lo troveremo nelle presto. Prossime settimane. Però certo c'è stato una serie di attacchi sessisti. Io vi voglio far sentire Daniela Santanchè, perché Daniela Santanchè dice: io che per anni li ho subiti gli attacchi di questo tipo, ora dico basta Laura Boldrini. E di questo si è discusso molto, no? Degli attacchi anche a sfondo sessuale, soprattutto nei confronti delle donne in politica. Sentiamo se c'è Daniela Santanchè che ha parlato ieri. La dobbiamo smettere, come sugli attacchi alla Boldrini, che adesso viene spacciata come una novità assoluta. Io appartengo al centrodestra, è 20 anni che mi insultano, è 20 anni che mi fanno gli attacchi sessisti, sto scatenamento di difesa, io non l'ho mai visto. Allora, Luca Dini, qua ci sono le donne di centrodestra che da qualche giorno dicono: ma insomma, dove eravate tutti? Dove eravate tutte quando... Non è vero. Non è vero. Quando sono stati fatti attacchi veramente pesanti con le donne di centrodestra, il centrosinistra spesso ha manifestato solidarietà, le donne di centrosinistra. Invece io le donne del Movimento 5 Stelle in questi giorni non le ho sentite quasi per niente. E non parlo tanto della Boldrini, parlo dell'offesa che è stata fatta alle parlamentari del PD, che è di una gravità spaventosa. Sì, sì. Fa vergogna veramente. Fa vergogna, loro dicono c'è stato anche lo schiaffone del questore D'Ambrosio, ma è diverso, dici? È comunque anche lo schiaffone, però bisogna anche dimostrare che lo schiaffone è stato dato a una in quanto donna. Invece l'offesa di De Rosa... Lì è indiscutibile, l'offesa è stata data proprio alle donne, siete qui per le prestazioni tutte sessuali le donne... che avete fatto, no? Offende tutte le donne che si fanno strada onestamente nella vita. Milioni in Italia. No, ma questo certamente, c'è da dire che il livello è sceso, come dice Paolo, uno squallore dal quale si può solo risalire, ecco, questo sì. Tu da donna come hai vissuto questi giorni? Effettivamente però le accuse, quando si accusa una donna, il modo più facile purtroppo da sempre è quello di buttarla sul sesso, no? Sempre, sempre così. Cara Paola, da donna tu mi hanno spiegato quando andai a Sarajevo. La guerra appena finita, e tu dici devi andarci a Sarajevo per capirlo, no, ma che la prima norma è questa: il paese che ti ha invaso o il paese contro il quale tu combatti, beh, prima di tutto lo devi distruggere violentando le donne, e poi facendo in qualsiasi luogo, in qualsiasi posto, il viale dei cecchini, dove un bambino vale all'epoca, dicevano così, 1000 marchi, una donna 500 e un uomo 250. Questa era la graduatoria erano i prezzi dei cecchini, terribile, che uccidevano. Una ragazza ai 19 anni, perché il suo compagno è geloso, finisce in coma e non sappiamo se uscirà viva alle porte di Roma, perché l'uomo la pesta e la distrugge a calci in faccia. Poi, chiamando il 118, dice: è scivolata e caduta. Allora, la regola rimane sempre la stessa, ovunque. Facilissimo colpire le donne. Il silenzio delle donne è assordante, da qualsiasi parte, ma il silenzio delle donne è assordante. E concordo con il direttore, la strattonata è sempre grave, ma mentre quella alla camera sembrava una rissa, ahimè, non faceva ridere come nei film di Bud Spencer e Terence Hill, dove ti piglio perché t'ho sotto le mani, chi è? Aiuto, dopo capisco chi tu sia. Innanzitutto, se muovo una mano, che è un po' quello D'Ambrosio l'ha detto qui a questi microfoni, ha detto in una con una frase che può apparire un po' brutale: quando c'è una rissa non c'è una distinzione di genere, nel senso, come dire, nella concitazione, non che abbia cercato una donna, ma come per tentare di difendersi, di non mi sono reso conto in mezza frazione di secondo che fosse una donna rispetto a un uomo. Cosa che dirà un uomo di una donna? Poi le donne dicono cose altrettanto terribili degli uomini, certo, sì. Però è la cosa che un uomo dirà di una donna, bassissimo, eh? 24 mattino. Buongiorno Alessandro e buongiorno a tutti. La mia rabbia nasce dal fatto che parole come dignità, rispetto, oggi esistono solo nel vocabolario. E comunque sul blog di Dino può andare chiunque. Che ne sappiamo noi che tutti quelli che hanno scritto non siano del PD e di Forza Italia? A proposito di insulti, pensate bello. La gente insulta e i bersagli stanno zitti. Non reagiscono, non protestano, non twittano, non facebookano. Niente. Tutto cade nel silenzio. All'Andreotti. Pace. Da quel che allora si poté capire, Grillo mandò aria fresca in Parlamento per un'Italia da riconcepire. E cosa hanno fatto invece? Un censimento sulla donna del PD. Con la fellazio, quanti capi portasti al godimento? Incalzano i grillini coi monda razio che tal calunnia dietro glielo infilan. Noi che a statisti si credea dar spazio, glielo si rende un vaffanculo o Milan. Mi presento, sono il presunto stupratore fascista che dice la Boldrini. Vorrei sapere il beneficio che ne ha il popolo italiano da questo decreto Banca Italia. Tutta questa furia a usare la tagliola, mi piacerebbe saperlo. Noi non siamo fascisti, noi Milan siamo incazzati. Detta che vai in Arabia a raccontare che la crisi è alle spalle. Cioè, glielo posso dire in madrelingua, ma ti levi di ulo. Io ho questa madrelingua, Paola Saluzzi, tu la... Io devo dire che provo una profonda ammirazione per tutti coloro che lasciano un messaggio nella segreteria, cioè, come Mario Adinolfi non la pensa così, insomma. Comunque, aree creative. Allora, voglio fare un plauso a questo signore che oggi è immortalato dalla Repubblica, si chiama Andrea Tarantino, 32 anni, no, da 32 anni lavora, ne ha 49, da 32 anni lavora come piccolo di camera, cioè fa sulle navi Tirrenia, rassetta le camere. Sapete che ha fatto, caro Luca Dini? Ha trovato un pacco con 26.000 euro, ha detto: no, mi sono spaventato, l'ho visto, abbandonato, 26.000, le ha trovate, ha detto: mi sono spaventato, ha pensato, e se servono a una bambina malata magari? E che ha fatto? Le ha restituiti, no? Mi ha messo paura tutti questi soldi. Grande applauso, stai Sì, no, certo, oggi su Repubblica raccontano la sua storia, no? Così molto, visto che si dice sempre non ci sono delle buone notizie sui giornali. E poi che devo dire? Allora, ho qui Vanity Fair, cara Paola. Che novità? C'è una foto di copertina in cui c'è Vincent Cassel. E vabbè, già sento le donne qui. Oh. Oh. E anche pure mezzo biotto, come direbbero a Milano, mezzo biotto. Perché, caro Luca Dini, ma è mezzo nudo Vincent Cassel, bello? Lui va in giro così. Come va in giro così, cara Saluzzi, se lo vedi per Roma, no? Lui va in giro così, è bellissimo. Lui va in giro così. Vabbè, meno male che va in giro così. No, vabbè, comunque no, io di Vanity Fair voglio segnalare una storia. E effettivamente è un personaggio che è stato tristemente dimenticato, caro Luca Dini, no? È morto un mese fa, Tommaso è il Tommaso Onofri, 18 mesi, ve lo ricordate, no? Che era stato sequestrato e ucciso. Il padre Paolo è morto un mese fa, tra l'altro dopo essere stato gli ultimi sei anni in coma, in fin di vita. E perché raccontate questa storia? La raccontate dal punto di vista della mamma e quindi della moglie di Paolo Onofri. Perché, Luca? Perché, come dici tu, è stata dimenticata, come fosse un comprimario di questa storia, nemmeno tanto importante. E invece mi ha colpito molto quello che lei dice, cioè, dopo tutto quello che è successo, lei dice: non ho ancora capito se sono molto sfortunata o se sono una prescelta. Mm. E tra l'altro ha deciso di rimanere a vivere, questo è un po' il lato anche particolare, nella casa, no, da dove fu sequestrato il figlio, da dove poi dove è venuto. Tu te la ricordi questa vicenda, Paola? Forse non no, molto bene. Te ne sei occupata anche. Molto bene. In qualche trasmissione. Ed è giusto tornare a parlarne perché consumiamo troppo in fretta le notizie che arrivano e queste notizie poi quasi vanno via mentre le storie non evaporano, ne va via il dolore. E due, per capire che scattarono commenti troppo veloci, giudizi troppo rapidi. Assolutamente. Ci trovammo di fronte alla mostruosità di chi, avendo già ucciso, invocava la salvezza per il bambino in prima persona, cioè la stessa persona invocava salvezza per il bambino, la persona che si era macchiata di questo delitto, insomma, è bene averli. No, è vero, è una storia che è stata proprio dimenticata. Sì. Oh, io per concludere, cara Paola, c'è la ricetta del bombardino, se vuoi. Oh, allora, eccoci. Cos'è questa? Ma cos'è? Ah, il pranzo è servito, mamma mia. Vabbè, comunque dipende da dove si va. Comunque la ricetta base è Vov più rum o whisky o brandy più panna. Quindi Vov, panna e poi o rum o whisky o brandy, insomma, un liquore. La colazione di Paola, sì, più o meno. La colazione è servita. Molto bene, no, la verità è che il vero bombardino di tutta la settimana, lasciamelo dire, è Alino Minan. Ah, e tutto il suo gruppo, perché voglio dire, sentirvi di prima mattina corrisponde a partire con il piede giusto, quindi siete i nostri bombardini. Oh, evviva, che non è il piede di Berlusconi che ha messo la palla palla di Dudù ed è scivolato e si è fatto male. Ma quelli sono cagnolini. Ma è la notizia del giorno. Cribbio Dudù è scivolato e se rotto una caviglia, non lo so, Berlusconi è scivolato sulla palla di Dudù. Va bene, grazie Paola Saluzzi, grazie Luca Dini, alla prossima. Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:18 minuti. Forza Debosciati d'Italia! Come dico sempre io amichevolmente, con grande affetto vi faccio una carezza mentre vi dico: debosciati, piccoli debosciati, dai, forza, andate a produrre, andate a lavorare, attivatevi, insomma. E vi ricordo che noi parleremo di quello che è successo in Europa, l'attacco a Napolitano da parte della Lega, Napolitano che dice no all'austerity, la questione della battaglia sul sì euro, no euro. Questa alle 8:15 avremo Flavio Tosi, sindaco di Verona e leghista, avremo il professor Borghi, commentatore anche del giornale, avremo Sandro Gozzi del PD, europeista convinto, a discutere insomma di quello che è successo ieri, ma anche non solo del dibattito. Tra meno di 100 giorni, o meno, poco più di 100 giorni, ci sono le elezioni europee,

24 mattino. Quando sono le 8 e 18 minuti, eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, i giornali oggi hanno parole più o meno unanimemente dure nei confronti della contestazione avvenuta ieri da parte degli eurodeputati della Lega nei confronti di Giorgio Napolitano, che parlava a Strasburgo all'Europarlamento, ha chiesto più sviluppo, meno austerity da parte dell'Europa. Certo, però non ha minimamente detto che si debba uscire dall'euro, anzi ha rafforzato l'importanza dell'euro, e da qui sono nate anche le contestazioni dei leghisti. Oggi per esempio il più duro è l'editoriale di Massimo Franco in prima pagina del Corriere, parla di pennellata di fango all'immagine dell'Italia, di deriva di un partito che aveva ambizioni quasi nazionali fino a qualche anno fa, insomma di una sceneggiata. Parole molto dure che voglio commentare con un esponente della Lega, sindaco di Verona, Flavio Tosi. Buongiorno e ben ritrovato, sindaco. Sì, buongiorno a voi. Lei come la giudica questa vicenda di ieri? Me la definisca lei. Ma allora, la contestazione, poi fra l'altro Matteo Salvini ha avuto modo di chiarirlo, non era contro la persona del presidente Napolitano, era un modo per contestare la politica, questo tipo di politica europeista, e di renderlo visibile senza nessuna offesa, perché non si sono assolutamente sognati di offendere il presidente della Repubblica. Hanno contestato questa impostazione dell'euro. Poi c'è che in un Parlamento italiano, dove ci sono offese ogni giorno, quelle sì vere e pesanti, dove la politica si sta perdendo a parlare solo di legge elettorale, con il paese che sta sprofondando, ecco, forse bisognerebbe, ecco, tornare un po' con i piedi per terra rispetto a una polemica, perché quella di dire che è una pennellata di fango, insomma, mi pare un po' eccessivo, che ripeto, la protesta di Salvini e degli altri eurodeputati sì, è stata una protesta rispettosa della persona, senza ma tra l'altro punto, guai se l'avessero fatto. No, certo, peraltro proprio nel giorno in cui Napolitano ha chiesto, se vuole, uno stop all'austerity, uno stop al rigore, non guardiamo solo ai conti, guardiamo anche allo sviluppo, alla crescita, cioè qualcosa che anche lei da sindaco ha sempre detto, beh, insomma, questa Europa rigorista non ci sta bene, proprio in quel momento è nata una contestazione, no? No, a dire la verità, siccome appunto mi sono andato a guardare un po' le immagini e a cercare di ricostruire, Napolitano in quel momento lì aveva detto una frase, dopo ripeto ha correttamente ammesso gli errori del passato sull'euro, gli errori del presente, però in quel momento lì aveva espresso una frase che sostanzialmente suonava a difesa del sistema euro, ed è lì che è partita la contestazione. Sì. Però ripeto, secondo me si rischia di ingigantire un episodio che è una contestazione all'euro e al sistema appunto oggi di questa gestione di questa valuta, che è una gestione franco-tedesca ai danni dell'Italia, e quello voleva essere, se è servito a dare visibilità a questo tipo di polemica, tutto sommato non è un fatto così negativo, ripeto, cioè, soprattutto per i toni e i modi della protesta. Bene, visto che sarà una battaglia certamente tra 100 giorni alle europee, ma allora lo chiedo a lei direttamente, lei Flavio Tosi uscirebbe dall'euro? No, perché l'euro è stato, ci hanno fregato fin dall'inizio con il cambio, hanno fatto il cambio a favore del marco, a sfavore della lira, non lo svalutano, anzi continuano a tenerlo troppo alto, e questa è una politica della Germania, danneggiando le esportazioni, quindi in particolare l'Italia. Sono tutta una serie di errori che stiamo pagando carissimi, perché non riusciamo a difendere, abbiamo firmato il fiscal compact che in teoria dovrebbe portare l'Italia aumentare le tasse, perché questa è l'unica strada oggi per come è messa l'Italia, di 60 miliardi all'anno dall'anno prossimo. Abbiamo fatto di quelle cose in sede europea come Italia, mentre la Germania fa bellissimo i suoi interessi e li difende meravigliosamente, fregando noi. Noi invece non sappiamo fare i nostri in Europa, questo è il problema di fondo. Uscire dall'euro è chiaro che avrebbe due effetti. Uno, costa carissimo, cioè, perché non è che l'uscita dall'euro, uno dice beh, faccio il cambio a 1936-27 e torno indietro. Appunto. Uscire dall'euro è un costo altissimo. Due, per come è messa l'Italia col debito pubblico che ha, la speculazione internazionale che è feroce aggredirebbe l'Italia un minuto dopo. Ma infatti aumenterebbe lo spread, aumenterebbe il debito pubblico, le esportazioni chissà cosa succederebbe, addirittura si bloccherebbero tutti i crediti alle aziende che lavorano in campo internazionale. Ma mi scusi, allora la posizione della Lega è uscire dall'euro o fare che cosa? La posizione della Lega è una posizione cosiddetta eurocritica, cioè di dire che questo sistema di euro è un sistema che è micidiale rispetto alle imprese e al sistema economico dell'Italia, questo sicuramente. L'euro salterà non tanto perché lo decide una forza politica o perché qualcuno lo propone, l'euro può saltare se salta il sistema economico italiano, perché se finché salta la Grecia e cercano di salvare la Grecia, riescono anche a farcela come partner europei. La Grecia, che costerà 130 miliardi di prestiti in euro, vale il 2% del PIL europeo. L'Italia, che vale 9 volte tanto in termini di PIL europeo, è chiaro che se l'Italia salta si tira dietro tutto. Ecco, quello potrebbe essere la causa, ma non è che ci sia da augurarsi lo sfascio. C'è da augurarsi che l'Italia, quindi il governo italiano, anziché continuare a subire politiche europee, decisioni europee calate dall'alto ai danni dell'Italia, perché ripeto, è una competizione, anche quella dentro l'area dell'euro, è una competizione, si compete fra paesi, non possiamo continuare ad andarla a subire, siccome noi siamo dei benefattori. E cosa bisognerebbe fare? Mi dica, cioè nel senso, perché cambiare questa posizione? Faccio un paio di esempi. Allora, noi non siamo in una posizione di debolezza perché noi diamo ogni anno 8-9 miliardi di euro all'Europa, che vanno in benefici ad altri paesi, per dire la Polonia negli ultimi anni ha avuto aiuti dall'Europa per oltre 100 miliardi di euro e adesso la Polonia sta diventando un competitor terrificante rispetto alla nostra economia. Sta crescendo molto, andrebbero tolti questi miliardi? Ma diciamo che se uno guarda la situazione della Polonia e la situazione dell'Italia, è paradossale che di fatto l'Italia aiuti la Polonia, quella Polonia che ha il PIL che cresce, un'economia che sta diventando florida, e l'Italia che sta naufragando. Quindi insomma si potrebbero rivedere, diciamo, e sospendere queste... La battaglia principale è quella di costringere l'Europa a stampare moneta, cioè non può esserci che l'euro è fortissimo rispetto al dollaro, rispetto allo yen, ed è troppo forte, cioè, i giapponesi hanno raddoppiato lo yen circolante. Gli Stati Uniti continuano a stampare dollari proprio per tenere bassa la valuta, per favorire le esportazioni, e l'Europa ha una politica tedesca che è quella invece di tenere forte l'euro, perché ripeto, la Germania va bene ma ammazza noi. Così, sì, certo, così il cambio favorisce le esportazioni delle aziende tedesche ma non le nostre. E lo shopping favorisce, perché a noi oggi il fatto che si dica i paesi degli Emirati Arabi, i paesi stranieri stanno venendo a investire qua, peraltro stanno facendo shopping, si stanno comprando pezzi pregiati dell'Italia a un costo ridicolo, perché abbiamo un sistema in crisi. No, ma lei ha anticipato infatti questo tema, le dà fastidio, come lo vede Enrico Letta che va e dice ci sono 500 milioni che arrivano, diciamo, dal mondo arabo, ecco, poi vuol dire Kuwait, Emiri, Sheikhi, Abu Dhabi, Emirati Arabi, lei dice stiamo svendendo questo, lo immagino anche per Alitalia a questo punto, la stiamo svendendo? Diciamo che noi siamo in un momento in cui, se uno va a guardare quello che è la capitalizzazione della borsa italiana, il valore delle banche, il valore delle grandi imprese, è assolutamente inferiore al valore reale. C'è stato un momento prima della crisi, del boom, dove spesso il valore era superiore al valore reale. Oggi è larghissimamente inferiore anche al valore patrimoniale base, cioè se uno mette il valore patrimoniale delle imprese del sistema Italia, la borsa vale molto ma molto di meno. In una contingente come questo, chi viene a comprare aziende italiane fa un affarone, quindi non è che sono generosi a venire a fare affari in Italia perché ci vogliono bene, semplicemente stanno comprandosi pezzi pregiatissimi in Italia a un costo stracciato. Però insomma, generosi certamente no, ognuno fa affari. Esatto. Questo cosa vuol dire? Cioè non converrebbe all'Italia in questo momento di debolezza? Questo vuol dire che quando mi pare fosse Enel, cercò di comprare Gas de France, perché mi pareva fosse questa o Suez, non mi ricordo più una delle due, nel libero mercato, nella libera Europa, la Francia fece capire all'Italia: te ne torni a casa tua perché questo è un patrimonio nazionale e noi lo difendiamo con le unghie e coi denti. E noi invece, rispetto alle multinazionali, siamo veramente campo libero e campo aperto, e dopo viene fuori il casino dell'Electrolux o di altre multinazionali che quando gli va bene investono, quando non gli va più bene disinvestono, portano via tutto, magari prima si sono presi grandi aiuti dallo Stato. Quindi ecco, noi rispetto a quelli che sono gli asset strategici del nostro paese, forse dovremmo difenderli un po' in una fase come questa, ripeto, perché in questa fase stiamo svendendo. È una questione di debolezza, no? Quindi anche all'Italia è una svendita, secondo lei? In questo momento sì, in questo momento la si cederà, se entrerà Etihad o chi, comunque ha un valore che in altri momenti sarebbe stato decisamente diverso. È chiarissimo. Senta, a proposito di questioni politiche, vabbè, lei ha già definito, mi pare in maniera molto critica, la gazzarra che sta avvenendo in Parlamento centrale di Roma, molto più grave rispetto a quella della Lega. Credo che gli italiani siano allibiti con la situazione devastante dell'economia, che ci sia un Parlamento che va a capigliarsi in quella maniera. Cioè, in un paese serio, di stampo per dire anglosassone, si mettono tutti lì e pensano all'interesse nazionale, e là si insultano e parlano di tutt'altro, quindi veramente, cioè, la politica romana è distante anni luce dal paese reale. Senta, a proposito, ma Roma non l'ha mai attirata, perché lei era stato anche candidato premier, ma perché aveva detto tanto non vinceremo mai e quindi lo faccio come simbolo, come bandiera, le ultime l'idea di andare a Roma, comunque, certo la Lega adesso non ha grandi numeri, non l'attira? No, allora io ho lanciato l'idea, che poi bisognerà vedere se trova compimento, se io sarei ottimista, però, delle primarie anche nel centrodestra, per trovare la nuova leadership, perché quella dovrà esserci, perché è chiaro che non c'era sempre Berlusconi leader del centrodestra. In questo caso, se ci saranno le primarie, io ho dato la mia disponibilità a partecipare, come penso che parteciperanno tanti altri, certo, amici dell'area di centrodestra. Quindi lei deve pensare di andare a Roma se ha la possibilità concreta di rimettere in piedi il paese. È chiaro. Berlusconi, lei dice non può essere sempre lui, ma Berlusconi secondo lei può partecipare alle primarie? Cioè la domanda è candidabile anche per le sue vicende giudiziarie? Allora, Berlusconi non è candidabile e quindi in caso di primarie, se le primarie sono un fatto fuori dal Parlamento, sì, fuori dalle istituzioni, oggi sono un fatto volontaristico, quindi uno in linea astratta potrebbe anche, ma poi in realtà non può candidarsi al Parlamento e quindi sarebbe una candidatura in controsenso. Quello che va detto di Berlusconi è che comunque è un grande animale politico e che ha avuto una capacità di ritornare sulla scena che ha solo lui, perché veramente è riuscito di nuovo a far passare il messaggio che da una parte c'è Renzi, dall'altra c'è Berlusconi. Ma anche perché, però, il Premier non è per forza, non deve essere parlamentare, quindi tecnicamente potrebbe fare le primarie e potrebbe fare anche il Premier e non parlamentare. Ma dipende dalla vicenda giudiziaria. Appunto. La vicenda giudiziaria, al di là del fatto che uno sia parlamentare o meno, quando uno è Premier ha comunque una veste pubblica che un certo tipo di condanne ti tolgono necessariamente. L'ultima domanda è sulla questione Casini, visto che viene definito il figlio del prodigo, ma pare che la Lega non voglia far parte di una ipotetica futura coalizione in cui c'è Casini, la sua posizione, lei farebbe parte di una coalizione con Casini o ha una pregiudiziale? Allora, secondo me se il centrodestra vuole provare a giocarsi la partita con Matteo Renzi, dovrà comunque trovare un modo di ricompattarsi, perché se si va divisi Matteo Renzi vince a mani basse, quindi bisogna, è un fatto che di governabilità, cioè se si crede nel bipolarismo della governabilità bisogna ricompattare il centro. Quindi pur di vincere il problema è che non lo devi fare pur di vincere, su cosa lo fai? Su un programma serio, perché il problema con Casini, fra l'altro fra la Lega e Casini in particolare, nacque sul federalismo fiscale, su una serie di temi dove ci fu una contrapposizione frontale. E allora quando si facesse un accordo elettorale lo si fa su un programma serio, chiaro, si dice si fa questo assieme e questo si fa in maniera tale che dopo non venga fuori che quando per caso ti trovi a governare uno va da una parte, uno va dall'altra. Che è chiaro. Va bene, intanto la ringrazio, sindaco, grazie. Flavio Tosi, sindaco grazie di Verona e della Lega. Noi dopo la pubblicità torniamo e approfondiamo questa questione, insomma, europea, a partire da quello che è successo ieri, la contestazione, dice Flavio Tosi, ma insomma una contestazione comunque rispettosa, senza insulti, guai avesse insultato Napolitano, ma lo stesso Tosi ha detto no, non vogliamo uscire dall'euro, non voglio uscire dall'euro. La Lega vuole semplicemente rinegoziare un euro in modo diverso. 24 mattino. Allora eccoci qua, Flavio Tosi fino a pochi minuti fa con noi in diretta dice no, non voglio uscire dall'euro a domanda precisa, però voglio un'Europa diversa, quella in cui magari l'Italia non deve pagare 8-9 miliardi di euro all'anno a paesi come la Polonia che adesso hanno un'economia in sviluppo, e dice ma è come, noi l'Italia che è in crisi continuiamo a pagare questi aiuti nati in ere diverse, oppure torniamo però a battere moneta, cioè perché così il cambio con l'euro ci hanno fregato, dice hanno fatto un euro con un cambio che favorisce moltissimo il marco e favorisce dunque l'economia tedesca, che è spinta molto alla esportazione e invece affossa l'economia italiana. Sta di fatto che ieri è successa anche quella che molti giornali definiscono una gazzarra, la contestazione al presidente Napolitano. Ne vogliamo parlare con un onorevole del PD, Sandro Gozzi, esperto di Europa, già nostro ospite varie volte. Buongiorno, ben ritrovato Gozzi. Buongiorno a voi. Saluto anche Claudio Borghi, economista e editorialista del giornale. Buongiorno Borghi, eccoci qua. Buongiorno. Borghi, lei invece è molto netto, insomma, a vedere nell'euro il nemico pubblico numero uno in questo momento dell'economia italiana. Perché? Innanzitutto non sono solo io, poi ho sentito alcune lievi imprecisioni prima su cosa potrebbe succedere se per caso noi riprendessimo la nostra sovranità monetaria, e ovviamente non è così. E poi vorrei anche far notare ovviamente che la posizione della Lega è chiarissima ed è fuori dall'euro, quella la posizione, diciamo, no, Tosi io non no, uscirei Tosi dall'euro, no. Perché questo è personale di Tosi, quindi non facciamo confusione. La posizione della Lega è espressa da Matteo Salvini dopo un congresso, e i cartelli che venivano alzati ieri al Parlamento europeo erano no euro, e quindi vorrei anche dire che uno dei motivi di questa, chiamiamola contestazione, perché è un po' diverso rispetto a quello che invece normalmente tanti italiani sono stati usi fare al Parlamento europeo, dove si buttava fango, quello sì, le pennellate di fango contro presidenti del Consiglio democraticamente eletti e così via, che venivano sbeffeggiati in tutte le maniere. Si no? riferisce a Berlusconi? In prima fila, ma andrebbe qualsiasi altro, diciamo, un presidente eletto dal popolo, poi dopo è mio presidente, ma non si stava contestando in quel caso lì un italiano, si stava contestando una moneta approfittando di uno spazio di visibilità per prendere parte di un dibattito che è sistematicamente però negato. Mi faccia capire perché lei contesta ad esempio l'idea che sia molto costoso l'uscita dall'euro, sarebbe molto costosa? Perché per come tutte le cose deve essere confrontato con i costi alternativi, vale a dire, io non dico che non costerà uscire dall'euro, dico semplicemente che i costi di rimanerci sono palesemente superiori, e chiunque sia, adesso noi siamo qua, ce la raccontiamo, qualsiasi impiegato operaio che appena ricevuto la lettera di licenziamento perché la sua società sta decidendo di trasportare la produzione da qualche altra parte, magari proprio in Polonia, dove c'è lo zloty, non dimentichiamolo, non è che c'è l'euro. Allora a quel punto, poi dopo, forse la priorità di quella famiglia che si trova senza lavoro e senza nemmeno la prospettiva di poterne trovare un altro, vedete che diventa l'economia. Sì, ma bisogna capire, Borghi, se il nemico è l'euro o il nemico che spinge appunto la produzione ad andare in Polonia è il fatto che in Italia non si può investire, che ci sono troppe tasse, c'è il cuneo fiscale, gli imprenditori vanno via perché non conviene più investire in Italia, ma non perché c'è l'euro, forse perché c'è la burocrazia, il costo dell'energia. Il discorso è banalissimo, scusi, ce l'ha detto chiaro l'Electrolux, ha detto, signori, qui rischio di chiudere lo stabilimento dell'Electrolux perché la lavatrice prodotta in Italia costa 30 euro in sì, più sì. rispetto a quello che dovrebbe fare. Se noi avessimo moneta propria, di quanto svaluteremmo? Così ognuno la mette in testa, diciamo il 20% rispetto all'euro, mi sembra ragionevole, no? Come proporzione. Se una lavatrice costa 300 euro, se noi con moneta nostra avessimo una moneta giusta per la nostra economia, significa che sarebbe 20% più bassa rispetto all'euro, quindi su 300 euro di lavatrice l'Electrolux guadagnerebbe 60. Sì, certo. Allora, a quel punto la svalutazione come metodo per rilanciare le esportazioni, questo però, ma per rilanciare la produzione, la produzione e anche l'esportazione, però converrebbe in ogni caso di più produrre, perché non è che uno deve pensare solo alle esportazioni, deve pensare alla convenienza della produzione situazione domestica. A quel punto sarebbero 30 euro, che è il margine eccessivo che serve Electrolux, più 30 euro ulteriori, quindi significa che porterebbero qui della produzione. Non si può pensare di avere una moneta troppo forte e pensare di avere lavoro però qui in Italia. Questo guardi, per esempio di recente Confindustria dice che in realtà tutto questo sistema di filiere globale hanno già ridotto i vantaggi competitivi dei singoli paesi, ma insomma non vorrei addentrarmi anche in questioni molto molto strettamente economiche. Aspetti, però non è una questione economica, scusi Milan, una cosa brevissima, è molto banale: se buona parte di Confindustria ha delocalizzato, è ovvio che a questo punto la Confindustria comincia a ragionare da importatore, gli fa comodo l'euro, ma quello che fa comodo a un'impresa non fa comodo a un lavoratore necessariamente. Allora, però rimaniamo anche sulla questione politica e oltre che economica. Gozzi, la vogliamo affrontare dalla questione politica? Tosi ha detto è stata una contestazione ma rispettosa del capo dello Stato, nel senso che non c'è stato nessun insulto, ma diciamo anti-euro e della posizione della Lega. Poi veniamo alle questioni economiche. Gozzi, lei come giudica quello che è successo ieri in Parlamento? È stata una manifestazione marginale, piuttosto irrilevante, controproducente per la Lega, perché ha fatto emergere anche le contraddizioni tra Salvini, ad esempio, che dice via dall'euro, e Tosi dice no, nell'euro ci voglio rimanere. È molto contraddittoria perché il capo dello Stato, che tra l'altro era lì a rappresentare l'Italia, è stato contestato nel momento in cui diceva ciò che il 99% delle forze politiche italiane dicono, ivi incluso, mi sembrava almeno fino a ieri, anche la Lega, e cioè che il problema è quello delle politiche, che attorno all'unione monetaria occorre finalmente fare vere politiche economiche e sociali comuni. Sì, su questo guardi Gozzi, certo, su questo io l'ho chiesto a Tosi, però lui mi ha detto no, sì, è vero, noi siamo contro l'austerity, ma l'abbiamo contestato quando Napolitano poi ha parlato invece, diciamo, della difesa dell'euro, non tanto sulle politiche di austerity. Sì, tranne che poi Tosi aggiunge, come ripeto, che lui nell'euro vuole rimanere. Sì, il è vero. Il punto, io ho ascoltato anche quello che il professor Borghi ha detto, non sono d'accordo, è chiaro che bisogna essere pragmatici, non ideologici, su questo sono d'accordo, bisogna fare un'analisi costi-benefici, su questo sono d'accordo. Nella mia analisi costi-benefici occorre invece rimanere nell'euro, ma occorre rendere il nostro sistema un sistema che è più amico del lavoro e amico della produzione, e questo dipende solo da noi. Noi non possiamo pensare, come Italia, svalutazione o non svalutazione, di lavorare come i cinesi, cioè con poca innovazione tecnologica, essere pagati come i polacchi, vuoi, e io sono contrario, tagliando i salari, vuoi svalutando il valore di quei salari, magari tornando alla lira italiana, e pagare le tasse invece come gli italiani, perché, e cioè pagare tasse più alte d'Europa. Anche perché non si salterebbe tutto, voglio dire. Il problema è che in questa inerzia italiana, ecco, noi spingiamo così tanto per finalmente riformare le politiche del lavoro da vari punti di vista, non solo da quello delle regole, ma anche da quello degli investimenti, della politica industriale e della politica fiscale. È inutile, se noi pensiamo che la soluzione è trovare il capo espiatorio e nel caso specifico quello che va di moda è l'euro, non ne usciremo, perché anche se noi tornassimo alla lira italiana, a parte il fatto che all'epoca non avevamo una vera sovranità monetaria perché tutto veniva deciso sempre a Francoforte, ma non dalla Banca Centrale Europea ma dalla Bundesbank, a livello di moneta, quindi noi eravamo molto più dipendenti della forza monetaria dei tedeschi allora di quanto siamo oggi. Ma la cosa che si dimentica è che poi la svalutazione vuol dire pagare tutto molto di più, e dato che noi, faccio un esempio, per produrre servono le materie prime, dato che l'energia, l'Italia non è un paese esempio di materie prime, solo, pensiamo solo all'energia che è già il 30% in più della media, andrebbe alle stelle. Ma infatti questo un esempio, l'abbiamo cioè? In parte, solo in parte, il caso del peso argentino rispetto al dollaro americano. Tutti dicevano che l'Argentina aveva trovato la soluzione rispetto alla sua crisi, cioè quella di sganciarsi dal dollaro. Oggi l'Argentina si ritrova in una posizione molto difficile, eppure l'Argentina ha materie prime, quindi figuratevi dove cosa ci sarebbe l'Italia. No, ma questo è il punto da cui voglio ripartire dopo il traffico. Cioè Borghi dice non nego che sia un costo uscire dall'euro, ma come dire, la traduco brutalmente, meglio, forse Borghi, da qui ripartiamo, meglio pigliare una mazzata uscendo dall'euro piuttosto che continuare a sostenere dei costi che nel lungo periodo affossano magari più lentamente l'economia italiana. A Allora, prima di tornare ai nostri ospiti, anche gli ascoltatori, all'800240024, Michele da Padova, buongiorno. Michele. Buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Benissimo, dica. Sì, buongiorno Milan. Io volevo dire due cose. La prima è a Tosi. Che non c'è, io, però. Stimo molto Tosi, sono di Padova e lo conosco anche perché sono vicino. Lo conosco perché sono vicino al suo comune. Diciamo che però non è possibile sempre lamentarsi dell'euro. Io sento una valanga di politici che si lamentano dell'euro. Cioè, loro devono capire che le cose, il vantaggio competitivo che hanno paesi come la Polonia o che hanno paesi più efficienti dell'Italia rispetto all'Italia è dovuto ad altri fattori, è dovuto alla pressione fiscale, è dovuto al costo del lavoro. Cioè non è possibile sempre lamentarsi dell'euro in questa maniera qui e pensare che tutti i problemi si risolvano stampando moneta o recuperando la sovranità monetaria. Queste sono stupide, sono cose che chiunque ha studiato un minimo di economia capisce benissimo che non è possibile. Quindi lei contesta, dovrebbero fare altre cose tipo abbassare le tasse, diminuire il cuneo fiscale, queste cose renderebbero più competitivo senza uscire dall'euro. Insomma, critica questa impostazione. La ringrazio Michele, vorrei andare a Milano da Simone. Simone, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno Milano. Senta, io sono abbastanza in linea con l'ascoltatore di prima. Qui continuiamo come al solito a incolpare lo strumento, come se lo strumento fosse quello che decide poi il futuro nostro, e soprattutto pensare a un centrodestra in questo momento, il giornalista del giornale come anche tutti quelli della Lega, che sembra che non abbiano governato negli ultimi 20 anni, e qui c'è stato un problema di controllo, di scarsissimo controllo all'ingresso dell'euro, mentre negli altri paesi il controllo sull'euro e sul cambio c'è stato. In Italia non certo c'è che stata. Nasce all'origine, cioè questo cambio ci ha fregato all'origine. Cambio ci ha fregato all'origine, ma non c'è stato poi il controllo in Italia sul fatto che i costi raddoppiassero da un momento con l'altro. E questo controllo doveva farlo il governo che c'era in quel momento. E questo ci fu uno scandalo all'epoca, però come al solito durò il tempo all'italiana, il tempo di qualche mese e poi è finito. Quindi insomma, grazie Simone. Vorrei Borghi, insomma, sia gli ascoltatori sia Gozzi, ma molti dicono: ma effettivamente se uno svaluta la lira, cioè se si arriva alla lira si svaluta il 20%, non per questo la produzione costa il 20%, uno deve andare a rifornirsi all'estero, deve andare a prendere le materie prime, l'energia costerebbe già di più e sappiamo già quanto costa in Italia. Cioè non è questo automatismo, no? Svalutiamo e quindi costa tutto della stessa percentuale in meno. Ci crede che questa poesia la conosco a memoria, perché a furia di forse perché è una verità più che una poesia, no? No, purtroppo non è una verità, perché è denegata dai dati. Tutti quelli che parlano delle materie prime ovviamente magari trascurano di capire o di dire come funziona il discorso con le materie prime, perché forse non tutti sanno che da un anno a questa parte, per esempio, il prezzo delle materie prime, l'indice CRB sui mercati mondiali, è sceso del 25%. Qualcuno ha per caso notato i prezzi inferiori al 25%? Com'è che quando le materie prime scendono del 25% niente succede, mentre invece dovrebbe succedere qualcosa svalutando? È evidente che le materie prime sono comprese anche nei prodotti che noi esporteremmo. È sempre successo così. Ma qualcuno si ricorda che per caso la benzina costava 4.000 lire quando c'era la lira, mentre invece adesso costa 2 euro? Sì. Ma sono delle cose che non esistono, proprio per evitare, per smettere ogni volta di dover ripetere tutte queste cose. Grazie anche alla Lega, grazie anche a Matteo Salvini, adesso ho fatto un libretto dove ci sono tutte le domande e le risposte banali. Sì. Proprio però non è come diceva l'ascoltatore a dire, cioè, cominceremo a distribuirlo. Cominceremo a lei che fa? Si candida, da Firenze, si candida con la Lega? E poi, no. Io in questo momento di candidature non se ne parla nemmeno. E non sono un politico, io sto facendo informazione. Certo. Purtroppo manca totalmente l'informazione. Salvini mi ha chiesto se potevo aiutarlo a farlo, e lei lo aiuterà. Però le chiedo, dopo, come diceva l'ascoltatore, non è chiaro. Certo, come diceva l'ascoltatore, il problema sta nel manico, appunto, nel mancato controllo della politica. Cioè il problema sta nell'euro o l'aver fissato quel cambio con la classe politica che ha accettato tutto questo? Cioè il problema è nell'euro quel cambio sciagurato era sbagliato, ma stiamo parlando di una cosa di 12 anni fa. Se anche fosse stato sbagliato, in ogni caso ormai adesso il mondo è cambiato, è differente. differente. Il problema è nell'euro perché sta semplicemente impedendo quello che normalmente succede nei confronti di tutte le economie, sì, vale a dire il riaggiustamento fra delle economie che per un motivo o per l'altro divergono. Poi dopo, per carità, uno può andare a cercare tutti i motivi possibili, sì, per cui noi non siamo la Germania, forse perché noi non lo siamo, ma se noi prendiamo per esempio l'Inghilterra, perché sì, poi è sempre facile andare a prendere l'Argentina c'è le materie prime, è ovvio che va in crisi, tiene il peso troppo alto oltretutto, e fra l'altro se le materie prime scendono del 25% l'Argentina perde, perché è un paese esportatore. Ma prendiamo l'Inghilterra, che non è l'Argentina. L'Inghilterra quando è andata in crisi, vale a dire nel 2008, perché c'era la Lehman Brothers e c'è stata una crisi delle banche, e l'Inghilterra è un paese finanziario, l'unico modo che ha potuto fare per tenersi in piedi è stato garantire il proprio debito comprandolo al 100% con la sua banca centrale. Sì. Queste tensioni sono andate a scaricarsi sulla sterlina, che è svalutata del 50% quasi, perché era un euro e mezzo andata quasi a un euro. A quel punto poi dopo il risultato cosa è stato? È stato che gli inglesi adesso sono pronti per ripartire, sì, hanno assorbito lo shock. Noi invece non abbiamo nessuno strumento per assorbire lo shock, chiaro, siamo andati contro il muro e siamo fermi. Ma guardi, però questo è un tema che riaffronteremo. A me dispiace, volevo dare la parola ancora all'onorevole Gozzi, ma Gozzi, tanto lei è spesso nostro ospite, purtroppo non c'è tempo se non sforo per parlare e chiederle sulla preoccupazione, se la preoccupa o no questa vena anti-europeista in visione anche delle elezioni europee. Ma guardi, ci sarà tempo di reinvitarla e approfondire. Intanto la ringrazio l'onorevole Sandro Gozzi e Claudio Borghi per essere stati con noi, con Miriam Lucchetti in redazione, Alessandro Marco Tulli e Elisabetta Fusconi. Vi diamo appuntamento a domani, c'è sempre Peter Biscapè in regia, e l'appuntamento è rinnovato a domani 6:30 Radio 24. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.